Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ed eccomi questo venerdì 23 di maggio. Ovviamente per chi sta ascoltando in diretta e non il podcast, eccomi ad annunciare per l'ultima volta Eclettica alle ore 19, minuto più, minuto meno. Perché settimana prossima, l'ultima settimana di Rock FM, l'ultima settimana di Eclettica su Rock FM, sarà una storia diversa. Infatti Eclettica da lunedì al giovedì andrà in onda fra le 20 e le 21, il palinsesto viene abbastanza stravolto per l'ultima settimana. E poi la trasmissione del venerdì non ci sarà, perché ci sarà un'Eclettica edizione speciale nelle ultime 24 ore, in altro orario, con tutte le voci di Rock FM a leggere quelli che hanno voluto scegliere come incipit e a farvi ascoltare, come spezzoni cinematografici. Per quanto riguarda quest'oggi, io ho ancora dei libri da leggervi, ho ancora Persepolis da farvi ascoltare e ho ancora tanta musica con cui tenere unito il tutto. Rozzi pensieri e feroci forze costituiscono il mio essere. Non so chi sono, né chi fui. Non ho mani per tastarmi il volto. Non riesco ad udire alcun rumore. Un dolore diverso da qualsiasi dolore patito finora si preannuncia. È questa la paura che ti insalda l'universo. C'è il dolore alle fondamenta del tutto. E i fiumi sono vene di pena. E gli oceani, una mente allagata. Ho una sete che è simile alla rarsura della terra bruciata. Le montagne si torcono. Vedo flutti di fiamme, scie, strie, lampi, onde di fuoco. Questo era l'incipit di Antiche sere di Norman Mailer. We'll be right back. possono fare. Avanti, alzati e cammina. Va e fa ciò che devi fare. Non dimenticare, la lotta continua. Sì, sì, la lotta continua. Fumava e pensava all'errore compiuto. Giulio Caperdoni con voi, con Eclettica fino alle 20, che ha appena lasciato i TV Lumière, band Umbra che era da qualche settimana che mancava da queste playlist. Mondanità, mondanità è il titolo del pezzo che ci siamo appena ascoltati. Prima ancora dal Canada Brendan Cunning, il secondo componente dei Broken Social Scene ad uscire con un album solista, Hit the Wall, il titolo del pezzo. Ed ora sta per arrivare invece un brano che è legato, seppur non contenuto, all'interno di quello che sarà il nuovo album di My Brightest Diamond, album in uscita il 17 di giugno, dal titolo A Thousand Sharks Teeth. Dico legato, ma non compreso, in quanto è il remix della traccia numero 1 delle 11 che sono contenute all'interno di questo disco. È il remix fatto fra l'altro da Son Lux, un altro nome che compare spesso da queste parti ultimamente. È il remix di Inside the Boy. Ma prima di arrivare all'ascolto di quella canzone, voglio lasciarvi con le parole di Cassandra, parole che non sono solo sue, infatti sto per leggervi sia le sue parole, sia anche una poesia, il pezzo di una poesia che Cassandra ha mandato. Giulio, non chiedermi una spiegazione razionale e precisa su questa mail, devo inviarla e basta, tanto fin quando non l'avrò fatto, non sarò contenta. Del resto Eclettica non spiega, ma emoziona e lo fa in ognuno in modo diverso. Sono giorni che ogni volta che parte la trasmissione, al pensiero della chiusura della radio, mi assilla in testa una poesia che io ritengo bellissima e che racconta di un semplice ma intenso saluto dopo un'esperienza di viaggio, che è un po' il viaggio di Eclettica e della radio. Nonostante sia considerata melancolica e triste, io la trovo piena di ottimismo perché termina con un augurio di buon proseguimento. È quello che faccio a te, ad Eclettica e a tutta la Rock Family, visto che un nuovo treno sembra sia partito. La poesia è di Giorgio Caproni, e scusami se lo sottolineo con un po' di orgoglio, poeta toscano. Immagino tu la conosca, ma lasciami il piacere di scriverla comunque, anche se è pure lunga. Il titolo della poesia è Il congedo del viaggiatore cerimonioso, è davvero lunga e quindi io non vado a leggervela tutta. Ve ne leggo l'inizio e la fine. Amici, credo che sia meglio per me ricominciare a tirar giù la valigia. Anche se non so bene l'ora d'arrivo e neppure conosca quali stazioni precedono la mia, sicuri segni mi dicono, da quanto mi è giunto all'orecchio di questi luoghi, che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. E saltando alla fine, dicevo che era bello stare insieme, chiacchierare. Abbiamo avuto qualche diverbio, è naturale. Ci siamo, ed è normale anche questo, odiati su più di un punto e frenati soltanto per cortesia. Ma cosa importa? Sia come sia, torno a dirvi, e di cuore, grazie per l'ottima compagnia. Inside a boy, I found a universe, and in his eyes are a thousand stars on a dark sky. Inside a boy, I found a universe, and in his eyes are a thousand stars on a dark sky. We'll be right back. shifters, our ages can never be found out. No, our ages keep moving further on. We are stars. Talmente la felicità che finimmo per dimenticare che non eravamo liberi.